Processo lavorativo, lavoro manuale, intellettuale. Processo lavorativo, lavoro manuale, intellettuale. Arriva il capitalista, porta la scissione. Arriva il capitalista, porta la scissione. Saggio il plusvalore aumenta con l'intensità. Saggio del plusvalore aumenta con l'intensità. Natura influenza la produttività con la racchità naturale dei mezzi di sussistenza e di lavoro. Natura influenza la produttività con la ricchezza naturale dei mezzi di sussistenza e di lavoro. La ricchezza naturale dei mezzi di sussistenza e di lavoro.